Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati, Luca Tremolada al microfono. Insomma, ieri abbiamo parlato di internet con Luca Dello Iacovo, che è anche oggi qui con noi. Abbiamo parlato, buongiorno, di contenuti, abbiamo parlato del bavaglio della rete, dell'anomalia italiana, dei tentativi, delle difficoltà, dei filtri informatici. Però abbiamo anche raccontato che al netto, a valle, insomma, di quelli che poi sono i contenuti e sono le persone che parlano e utilizzano la rete, ci sono anche delle vulnerabilità strutturali, per cui, come ci ha raccontato Arturo di Corinto, internet era nata per poche centinaia di computer, adesso si trova a gestire un traffico di milioni di server, e questo la rende, diciamo, vulnerabile, particolarmente vulnerabile. Anzi, è diventato uno spazio di discussione in cui i blogger e le persone che frequentano i social network si confrontano, scambiano delle idee, e questo è un fenomeno sempre più diffuso, e basti pensare appunto ai 350. C'è l'aspetto delle reti sociali, ecco, c'è l'aspetto delle reti sociali e della libertà di parola e della libertà di espressione. Ieri siamo partiti da Teheran, dalla protesta, dalla cercare di capire qual è il ruolo che ha avuto poi Twitter nel diffondere la protesta e nel farla capire soprattutto all'estero, più che poi in Iran, e abbiamo anche cercato di capire poi quali sono state le conseguenze in diversi paesi del mondo dell'arrivo di blog, e in particolare adesso andremo a vedere in Cina che cosa, ecco, ha significato. Ecco, perché esatto, infatti volevo arrivare a questo, per cui, cioè, partendo questo discorso, siamo partiti dalle vulnerabilità, dai contenuti, dall'Italia, per poi dover arrivare in Cina. In Cina, noi la racconteremo oggi in una doppia veste, però non sveliamo tutto adesso, e adesso andiamo a sentire un pezzo tratto dal blog di Gabriele Barbati, che è un collaboratore di Nova ed è un giovanissimo giornalista che sta appunto a Pechino e che racconta la Cina da là. Sentiamo. Il modello è ormai consolidato. Qualcuno ha capito che le manifestazioni passano per giorni tra mail, messaggi e chat prima di arrivare in piazza. In Iran, all'indomani delle elezioni contestate, gli oppositori e la gioventù hanno utilizzato, finché è stato possibile, cellulari e computer, e poi il passaparola per darsi appuntamento nelle strade e sorprendere le forze dell'ordine. Lo stesso è accaduto finora in varie zone della Cina, dove dai contadini fino alla classe media le proteste contro le autorità si sono moltiplicate in questi anni. Solo che nel marzo 2008, in occasione delle rivolte in Tibet, il governo cinese ha capito come la prima mossa in questi casi sia quella di tagliare le comunicazioni. La gente non si può organizzare, e se davvero accade, come dicono spesso le autorità, non si coordina più con gli ispiratori delle violenze dall'estero. Soprattutto, un miliardo di cinesi continua in questo modo ad avere accesso ai soli media ufficiali, controllati dalla propaganda, che danno in questi giorni un'unica versione, quella degli Han aggrediti dagli Uiguri. Il che è vero, ma è solo una parte della realtà, in assenza delle ragioni della minoranza islamica e turcofona che abita la provincia. Ma questo è il racconto di Gabriele Barbati, che è chiaramente un racconto dall'interno, che è un racconto che tra l'altro è attraverso le reti, visto che lui è anche... E si ricollega anche al tema che abbiamo toccato ieri, anche del nazionalismo emergente, che si vede molto attraverso i social network. E quando c'è stato l'evento che ricordava Gabriele Barbati nel suo intervento, è stato aperto un sito anti-CNN che ha raccolto una valanga di commenti negativi nei confronti del racconto dei mass media occidentali su quello che stava succedendo in Tibet. Cioè, i cinesi vedono le cose in modo molto diverso da come noi le vediamo qui in Europa e nel mondo occidentale. Sì, infatti il mondo non è piatto, cioè non c'è un mondo solo, non c'è un solo modo di guardare alla Cina. Oggi lo scopriremo, e lo scopriremo con Gianluigi Negro in collegamento. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per la chiamata. Allora, Gianluigi Negro, esperto di social network, scrive per noi di Cina, insomma, è stato anche in Cina, insomma, è un nostro studioso di reti sociali. prima di mandare una scheda che ci racconta un po' quello che è un po' lo stato dell'arte, della libertà telematica, diciamo, cinese, io volevo chiedere appunto a Negro quanto è complicato capire questo mondo. La difficoltà nello studio di questo fenomeno è data principalmente da due fattori. Il primo è dato dai termini numerici, quindi poter avere un campione con il quale basarsi. Il secondo deriva appunto da questi numeri non consentono un'analisi immediata e profonda di quello per raggiungere dei risultati in maniera, ecco, in maniera tempestiva. Questo dal punto di vista del ricercatore, però poi c'è anche una difficoltà, una dettata anche dalla lingua, perché tu mi spiegavi anche che c'è anche un modo di parlare attraverso internet che... Molti blogger cinesi hanno dimostrato nel corso degli ultimi mesi, degli ultimi 2 anni in particolar modo, di sviluppare un linguaggio, un determinato slang che riesce ad aggirare anche quelli che sono i filtri di censura verticali del vecchio, la grande muraglia di fuoco per intenderci, il grande firewall che ha caratterizzato la Cina, che continua a caratterizzare la navigazione cinese. Ecco Luca, ci spieghi che cos'è questo grande firewall? Sì, è una sorta di difesa delle comunicazioni in Cina ed è un filtro che funziona in modi diversi e in regioni differenti. Però ecco, le cose più importanti sono che filtra per esempio delle parole chiave, delle parole sensibili che possono essere appunto Tiananmen o possono riguardare altre questioni. E che tra l'altro non è solo tecnologico, cioè nel senso che è costosissimo come farlo. Infatti quando si dice ma si può in un certo senso esportare questo tipo di controllo sulla rete anche in altri paesi, questo non è affatto vero, perché c'è un elemento umano, ci sono migliaia di persone che dragano la rete, che controllano i contenuti, che controllano tutto quello che passa. Anzi, c'è un gruppo che viene chiamato il Partito del 50%, sono dei volontari che vengono pagati per piccole cifre per monitorare il mondo di internet e pubblicare poi dei commenti positivi quando invece vedono delle critiche nei confronti dell'attualità. Negro ci racconterà anche dei blogger pagati chiaramente dal governo, insomma, per essere proattivi, per essere felici, per mandare dei messaggi positivi. Ma allora a questo punto mandiamo la scheda che ha redatto dello Jacopo, che insomma fa un po' il quadro dello stato del social network, ecco, diciamo così. Se gli italiani hanno scoperto da poco Facebook, in Cina i social network e i blog vantano una lunga tradizione. Negli ultimi 10 anni lo sviluppo di internet è stato dirompente. Adesso i cinesi online sono 338 milioni, 9 persone su 10 usano connessioni veloci. Le ampie autostrade informatiche hanno facilitato la moltiplicazione di cloni per YouTube, Google e Facebook. Sono tutti siti web identici agli originali, ma adattati con caratteri in mandarino. Il principale luogo di ritrovo online è una chat con 300 milioni di utenti e ha il nome simile al verso di un uccello, cucù. È in questo scenario che fanno sentire la loro voce i blogger. Sono stati tra i primi testimoni del terremoto nel Sichuan. Hanno scoperto casi di corruzione e di inquinamento nelle principali città. Raccontano le limitazioni della libertà civile. Sono stati i blogger a denunciare le violenze subite da un detenuto in un carcere dello Yunnan, una remota provincia del sud-ovest. Ma le aree rurali non sono ancora raggiunte dall'avanzata di internet. Sono 84 milioni le persone che hanno accesso al web dalle campagne. L'attività dei blogger continua anche all'estero. Xiao Qiang, un astrofisico sopravvissuto alle proteste di piazza Tiananmen, ha fondato negli Stati Uniti una rivista online con un gruppo di blogger dissidenti. Adesso China Digital Times è un punto di riferimento per l'informazione sulle frontiere di internet. Allora, noi nel corso della puntata proveremo anche a capire con Luca Dello Jacopo come si va un po' a scoprire questo mondo, come si può guardare da qui al mondo dei social network cinesi. Ma con Gianluigi Negro vorrei capire un attimino di più, innanzitutto, l'identikit di questo paese dal punto di vista dei media. Dal punto di vista dei media è difficile poter dare un quadro dettagliato. Cioè, chi è che naviga su internet? Cioè, chi sono quelli? Chi sono? La maggior parte, allora, innanzitutto bisogna dire che l'utenza cinese rappresenta la più popolosa al mondo con 338 milioni di utenti, di cui la maggior parte è composta da una fascia d'età sostanzialmente giovane, ovvero al di sotto dei 29 anni. Quindi sono più giovane rispetto all'Occidente. Sì, anche rispetto agli Stati Uniti. Ha dimostrato, soprattutto nell'ultimo anno, di avere una predisposizione molto spiccata con l'utilizzo dei social network, anche più marcata rispetto a quello che è presente negli Stati Uniti. Ecco, e ci sono, Gianluigi, anche delle storie molto belle che vengono dalla blogosfera cinese, delle storie che ci mostrano che cosa in effetti poi si può fare avendo a disposizione uno spazio per raccontare. C'è una storia molto bella, quella di un blogger che è Ai Weiwei, che sì, appunto è già citato da voi, se non sbaglio, una puntata di novembre da Beatrice Leanza, con la quale lei ha collaborato. È un blogger molto poliedrico, anche, se vogliamo, irriverente nei confronti di quelli che è la struttura censoria del Partito Comunista Cinese. Lui vanta, ha anche un profilo Twitter con un seguito molto marcato di più o meno 17.000 followers, e lui è stato molto impegnato, come avevo sempre sentito dalla scheda, nelle ricerche che caratterizzano appunto quelli che è stato il terremoto del Sichuan. Ecco, Nego, ricordiamo che i followers sono le persone che si abbonano al Twitter, seguono il profilo Twitter, che è interessante notare che la maggior parte di essi siano cinesi e che quindi, nonostante il servizio di microblogging in Cina sia attualmente oscurato, comunque è possibile seguire questo, trovare degli espedienti e continuare a seguire quelle che sono le indicazioni. Anche perché poi l'internet che si vede dalla Cina è un po' diversa dall'internet che vediamo da qui, come sta ricordando appunto. Twitter viene filtrato spesso a tratti, la stessa cosa accade con Facebook, la stessa cosa accade poi con pagine, diciamo, di YouTube. Sì, quindi stanno creando un altro scenario, un altro panorama di internet. Sicuramente questa attività censoria non fa altro che sviluppare quelli che sono i servizi autoctoni, però è opportuno sottolineare quanto la consapevolezza di questi strumenti, anche che appunto questo contrasto da parte governativo sia sempre più consapevole nell'identità dei blogger e degli internauti cinesi. Sì, ma torniamo un attimino a Bomba. Cioè, prima di raccontare un po' di questi profili di blogger cinesi, cioè io vorrei capire che differenza c'è, per esempio, tra QQ e Facebook. Cioè, c'è un modo diverso di intendere la comunicazione? Perché noi sappiamo, almeno chi insomma ha un account di Facebook, sa che si tratta di un social network dove ognuno ha una sua foto, può esprimere dei pareri, insomma è una sorta di carta d'identità digitale che viene appoggiata, viene appiccicata alla rete. Questo tipo di logica chiaramente è un po' pericolosa in Cina, o sbaglio? A dire sì, sicuramente molti studi hanno dimostrato, come facevi riferimento tu, QQ è sottoposto a una forte azione di monitoraggio, e quindi questo tipo di controllo può veicolare e vincolare anche quelle che sono le scelte dell'utenza, anche più come dire, consapevole. Però una volta scoperto questa attività governativa, si avviano dei forum, delle discussioni che si sviluppano, come avevo anticipato precedentemente, e si cercano dei nuovi espedienti per realizzare, concretizzare una conversazione quanto più orizzontale. Ecco perché infatti una blogger del Berkman Center, che è Rebecca McKinnon, raccontava di come in effetti sta cambiando qualcosa in Cina. C'è un nuovo progetto per cui alla fine, da un lato, resta una forte attività di controllo e di monitoraggio, però contemporaneamente internet è comunque la grande sfera pubblica, la grande sfera di discussione online, dove tutti possono partecipare, e quindi questo sta generando un mondo ibrido. Ad esempio, uno dei casi più interessanti è dato da Mao Xianghui, che è un blogger molto famoso, in Cina, uno dei primi blogger, il quale l'anno scorso ha pubblicato una lettera aperta indirizzata a Google, nel quale veniva richiesto apertamente un'attività trasparente da parte del motore di ricerca, che possa essere quanto più vicina a quelle che sono le istanze della società civile, che quindi il cosiddetto popolo della rete, è rispettoso nei suoi confronti, a differenza di portali autoctoni come appunto Baidu oppure Qzone. Ecco, quindi siamo distanti anni da quello che è successo tempo fa con il blogger Michael Anti, quando poi, che per alcuni suoi post, si vide chiuso il blog direttamente. Adesso forse è l'epoca un po' più di un dialogo, cioè si cerca una strada, un compromesso continuo con quelli che gestiscono in un certo senso le piattaforme, e anche poi con chi controlla e con chi ha il compito, diciamo, di sorvegliare in questo momento. Perché tutto questo? Perché appunto ha un'influenza, quello che succede su internet ha un'influenza, tanto che il presidente cinese Wen Jiabao ha partecipato ad una chat, ed è stato un evento che in Cina ha avuto un eco enorme, perché comunque un presidente cinese che entra in uno spazio online significa che accetta poi anche un... Ecco, ma una domanda, non è marketing politico, nel senso che io la mia impressione, chiaramente da io non sono assolutamente uno studioso di social media orientali, però il rischio di essere un po' vittima di operazioni di propaganda più o meno mascherata, dove è complicato capire chi c'è realmente dietro a un blogger, fanno sì che è anche difficile giudicare questo mondo. Io questo lo vorrei chiedere sia a Negro che a Dello Jacopo, che siete un pochino più ferrati, ecco. Io avrei un appunto per quanto riguarda quello che ha detto Luca Dello Jacopo. Purtroppo non siamo molto distanti da quello che si verificava pochi anni fa, nel 2000, all'epoca del 2005, quando è stato oscurato il blog di Michael Anti. Certo, è presente, come dicevo prima, una consapevolezza maggiore, che porta diversi blogger a tenere aperti diversi spazi, di ripubblicare i loro scritti su diversi siti. Ecco, questo lo puoi spiegare come la strategia? Perché questo qua me l'avevi raccontata precedentemente, però c'è proprio una modalità per cercare un po' di sfuggire ai filtri, cioè com'è che funziona esattamente? Molto più semplice di quanto possa pensare, di quanto può apparire: aprire diversi blog su diversi spazi online, in modo che una volta che è stato colpito una piattaforma, come succede spesso, è possibile visualizzare il contenuto di un post su altri siti. È interessante sottolineare anche quelli che sono fenomeni di forte solidarietà e coesione del popolo della rete, il quale... Ma esiste un popolo della rete cinese? Cioè, il popolo è considerato in cinese, cioè, posto che sono 300, abbiamo visto che sono 300 milioni, no? I navigatori, per cui insomma praticamente la popolazione degli Stati Uniti, per intenderci. Posto che l'hanno sviluppato, come in tutto l'Asia, insomma, c'è anche un uso del cellulare estremamente diverso. L'ultimo rapporto dava a 155 milioni gli utenti che si connettono tramite telefonia mobile all'internet, registrando più 32% rispetto allo scorso anno. Comunque, per quanto riguarda il fenomeno del popolo della rete, come sarà che a me non piace l'espressione popolo della rete, sarà che non credo che non ho mai creduto agli internauti, cioè non credo a queste scorciatoie, però a maggior ragione su un paese lontano interessante come la Cina, insomma, mi piacerebbe avere qualche lume in più. A tal proposito io posso testimoniare l'esperienza di Guo Chuan, che è un professore universitario di Nanchino, il quale ha attivato, si è adoperato nell'apertura di un partito alternativo a quello del comunista, definendo appunto quelle che è la struttura e lo statuto del popolo della rete. Purtroppo il seguito, per quanto il seguito sia stato abbastanza marcato, il partito comunista ha subito sedato questa iniziativa, condannando a una decina d'anni in prigionamento il professor Guo Chuan. Quindi è una cosa fatta grossa, dici, nel senso che sì, però è qualcosa di sentito, di partecipato, come dimostrano gli innumerevoli casi che hanno contraddistinto questo 2009 nella rete. Pensa, ecco, e forse anche la partecipazione, forse anche la partecipazione delle persone, come tu stavi prima raccontando, attraverso i cellulari, sta anche cambiando qualcosa. Quando c'è stato il terremoto nel Sichuan, sono arrivati subito dei video su internet, su YouTube e su altri siti di video sharing. Molti di questi erano stati fatti con il cellulare, perché una cosa su cui magari si riflette poco, lo sa bene, ecco, magari chi segue come te il mondo di internet cinese, però magari per altri è meno evidente, è il fatto che le connessioni in banda larga, soprattutto nelle città, sono molto diffuse. Sono molto diffuse, ma io... E questo permette poi anche l'utilizzo più facile di appunto di filmati di portali come YouTube. Io ritengo illuminante a tal proposito l'esperienza di questo blog, di un giovane blogger dello Hunan, che è Zhou Shuguang, soprannominato Zola, perché si in che senso soprannominato? Com'è? Perché c'hanno anche è il nick, no? È il suo nick, è stato soprannominato Zola perché si rifà allo scrittore francese, il quale è stato arrestato un anno fa e ha twittato i passaggi del suo di questo suo episodio. Ecco, allora Nego, fermati un attimo, perché noi abbiamo in collegamento anche Claudia Starita, che è una ricercatrice dell'Università di Hong Kong. Esatto, per cui adesso noi adesso diamo la linea alla borsa, poi con Astarita allarghiamo lo sguardo a tutta l'Asia per capire anche di marcare un po' di differenze, e poi vediamo di mettere d'accordo dello Jacopo Negro su quello che è il senso dell'internet in Cina, perché chiaramente non avete capito, non sono d'accordo. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada. Stiamo cercando di capire con Gianluigi Negro, esperto di social media, come funziona il Facebook cinese, come funziona la realtà dei blogger in Cina, come funziona appunto quel mondo che utilizza la rete, che sfrutta internet per comunicare e per fare altro. Adesso c'era qui dello Yago che stava trafficando con internet. Sì, perché se magari vogliamo iniziare a capire qualcosa del mondo dei blogger in Cina, può essere un buon punto di partenza il sito di Global Voices, che è un sito che, diciamo, viene preparato, viene seguito a partire dagli Stati Uniti, ma che ha collaboratori in tutto il mondo. Una piattaforma abbastanza aperta. Lì non si è mai capito bene però da che parte stanno, cioè sono un po' da tutte le parti. Un po', guarda, allora, nel caso di Global Voices è finanziato dal Berkman Center e hanno e soprattutto ha come leader, diciamo, dell'iniziativa Ethan Zuckerman, che è uno straordinario studioso di globalizzazione. Consigliamo il Twitter di Zuckerman, che tra l'altro è un personaggio, insomma, sono notizie sempre abbastanza interessanti, particolari, insomma, accende sempre un faro su realtà poco conosciute che non sono raccontate dai giornali. Ed è un grande appassionato anche di musica africana e ogni tanto racconta qualcosa anche di musica africana e poi unisce a questi racconti però anche una consapevolezza, ecco, di quello che sta succedendo poi nei partiti e nei gruppi, ecco, in tutto il mondo di blogger. Quindi Global Voices, l'indirizzo lo abbiamo scritto sul Twitter di Novalab24, non lo diamo da un pezzo, www.twitter.com/Novalab24. Tra l'altro, se avete poi problemi così, c'è anche la mail, lo Jacopo risponde a tutti personalmente, che è novalab24@radio24.it. E ancora un altro punto di riferimento è China Digital Times, e qui c'è una storia molto particolare, perché China Digital Times è stato fondato da Xiao Qiang, che è un astrofisico, e durante i giorni della protesta di piazza Tiananmen era a Pechino poi ha deciso di lasciare la Cina, è andato negli Stati Uniti, ha fondato questo portale, e da qui, diciamo, racconta i lati più oscuri, più controversi della Cina, e quindi racconta delle grandi lotte ambientali, racconta poi dei tentativi, delle tecnologie di censura e di controllo, racconta anche dagli Stati Uniti, cioè, dagli Stati Uniti, questo è un po' il limite che io sento, nel senso che poi di fatto è un po' come gli esuli cubani, no? Che arrivano, poi raccontano la loro terra, il regime, da un punto di vista chiaramente di chi è ormai lontano. Infatti la domanda è se quella è una lente corretta per comprendere questo paese. Forse è un punto di vista che permette, ecco, a una serie di eventi di emergere, perché altrimenti ci dovremmo affidare unicamente alle fonti tradizionali, quindi i grandi quotidiani, certo, o i blogger che magari in Cina devono sottostare, ecco, a delle regole più stringenti. Sì, abbiamo letto prima uno stralcio di Gabriele Barbati, un blogger di Nova che sta proprio a Pechino, abbiamo sentito Gianluigi Negro ed ora sentiamo Claudia Astrita. Buongiorno. Però lei ci racconta un internet, volendo, un pelo diverso, insomma, da quello che abbiamo raccontato finora. Sì, perché poi magari vivendo a Hong Kong può darsi che abbia visto qualcosa di diverso, è a pochi chilometri dalla Cina, però qualcosa c'è di diverso o no? Continuiamo a parlare io e te. Allora adesso mi interrompo io per un po'. Vi ho seguito fino adesso online, quindi ho visto, insomma, ho sentito quello che avete detto sulla Cina, e a Hong Kong la situazione è un po' diversa, però secondo me la peculiarità di Hong Kong, che se vogliamo classificare, diciamo così, i blogger, li potremmo suddividere in tre categorie, ovvero quella degli hongkongini, quella dei cinesi che vengono dalla Cina e che però restano fedeli alla posizione ufficiale, governativa, e quelli invece che, venendo pur sempre dalla Cina, diciamo, aprono gli occhi una volta arrivati a Hong Kong e quindi cambiano atteggiamento. Se vogliamo parlare delle caratteristiche degli hongkongini... Ma gli hongkongini già capisce il nome, per cui direi di partire da loro. Sì, secondo me, dunque, Hong Kong di fatto da una decina d'anni a questa parte, quindi da quando si è trasformata da colonia britannica in regione amministrativa speciale cinese, ha adottato più o meno ufficialmente la tattica dell'autocensura, quindi non ci sono filtri, tutto è accessibile, i giornali sono liberi di dire tutto quello che vogliono, però diciamo che sempre di più, per evitare di scontentare il governo di Pechino, cercano di non essere particolarmente aggressivi. Ovviamente ci sono delle voci isolate che mantengono alto il livello della polemica, però la norma sta più la prassi, insomma. Si è un po' timidi, insomma, non ci sono voci di rottura, è un qualcosa che si conosce anche in altri paesi, ecco, insomma, l'autocensura da un certo punto di vista. Esatto, secondo me lo dimostrano anche, che ne so, le storiche manifestazioni di Hong Kong, tipo la Notte delle Candele, che Hong Kong è l'unica città in Cina che si può permettere di commemorare i fatti di Tiananmen, un tempo decine di migliaia di persone si ritrovavano la vigilia, insomma, del 4 giugno ad accendere questa candela per commemorare i morti della strage, e oggi sono sempre di meno. Questo secondo me è particolarmente indicativo del clima che si sta progressivamente consolidando ad Hong Kong. E diciamo, come posti di accesso anche a internet, cioè è come in Cina che è difficile magari poter accedere a internet se non negli internet point che qualche volta sono clandestini, oppure c'è una libertà di accesso e anche l'internet che si vede da Hong Kong è diverso da quello che si vede in Cina, seppure sono così, sono attaccati? Sì, è completamente diverso. Come dicevo prima, a Hong Kong non c'è nessun tipo di filtro, le connessioni sono ovunque, voglio dire, si trovano anche wireless per la strada, nei parchi, nelle zone pubbliche, quindi quello non è assolutamente un problema, e si può accedere a qualunque tipo di pagina, quindi diciamo i contenuti sono visibili. Il problema è che magari nei telegiornali o sui giornali o talvolta anche nei blog si cerca di dare meno risalto alle notizie più critiche nei confronti della Cina. Completamente diverso invece è l'atteggiamento dei cinesi che vengono dal continente, cioè che si trasferiscono dal continente ad Hong Kong. E come vi anticipavo prima, le reazioni di solito sono due. Ci sono gruppi di persone che diventano sempre più nazionaliste e quindi si convincono ulteriormente di quanto il governo avesse ragione a censurare la stampa straniera perché porta notizie. Quindi dei supporter da un certo punto di vista. Esattamente. E poi invece ci sono quelli che ammettono loro stessi di essersi tolti i paraocchi e quindi di vivere, diciamo, il trasferimento a Hong Kong come una fortuna, perché mentre in Cina, come dicevamo prima, non è possibile vedere una serie di siti, siano essi di Hong Kong o del resto del mondo, anche cinesi, ad Hong Kong si può. E quindi a quel punto, diciamo, i cinesi più curiosi. Ecco, ma io volevo chiederti questo, cioè tu dici i cinesi più curiosi, ma c'è poi l'esigenza di guardare all'Occidente? Cioè, nel senso che poi il vero punto è anche quello di capire come una cultura millenaria come quella cinese, non credo che ci sia un problema di curiosità a guardare oltre i propri confini. Credo che loro stiano anche producendo, io lo vedo molto, lo vediamo nell'elettronica, nell'industria che stanno creando, cioè si stanno creando delle basi di civili loro molto specifiche. Ma guardare internet non significa necessariamente essere in contatto con quello che è l'Occidente in sé, però può essere un contatto con le comunità cinesi che sono all'estero. Esiste, quindi sono questo particolarmente forti, sì. Questo esiste, per cui non è solo la critica alla CNN, perché poi di fatto almeno noi giornalisti non riusciamo a uscire da questo tema. La critica è ai giornali stranieri, per cui al governo americano, per cui al governo occidentale, e ci si intoppa in questo cortocircuito. Esiste una comunicazione tra comunità cinesi? Sì, e questa è anche sentita come particolarmente pericolosa dello stesso governo, per i motivi che dicevamo prima, ovvero perché queste comunità che si trovano all'estero e sono esposte a notizie diverse possono in qualche modo influenzare chi è rimasto in patria. Io ricordo un paio d'anni fa venne approvato un provvedimento in Cina per impedire agli studenti che rientravano dall'estero di portare in valigia più di 10 libri. Attenzione. Perché in questa maniera potevano circolare appunto testi non cinesi o non autorizzati nel paese, senza fare differenza tra saggi, romanzi o letture, non so, di intrattenimento. L'importante è che non entrassero con questi studenti che erano andati all'estero materiali difficilmente controllabili. Stessa quindi cosa con diciamo anche il tema della grande muraglia cinese che filtra la, ecco, internet è in effetti solo la parte di qualcosa di molto più ampio, c'è quasi una sorta di barriera culturale su alcuni temi che viene costruita e che diciamo funziona ed è attiva ed è molto vigile. Secondo me sì, e oltre che su alcuni temi, io vivendo a Hong Kong lo vedo molto su quello che il governo teme di non essere in grado di controllare o anche solo di conoscere. perché cioè bloccare in questo caso dei libri di testo che possono essere quelli degli esami che gli studenti devono sostenere quando sono all'estero, certo, significa ammettere di non poter andare a verificare riga per riga che cosa c'è scritto e quindi bloccare un contenuto potenzialmente pericoloso, ma non necessariamente devono essere testi sui diritti umani. Ecco, e ci potrebbe magari essere un cortocircuito, perché sia la grande muraglia cinese tecnologica richiede uno sforzo enorme, un impegno enorme e costante, sia poi appunto questi tentativi di filtrare, no, i contenuti. Tu dici che cedono per sfinimento, cioè per stanchezza. Me lo domando più. Chissà, nel senso, perché dipende sempre dalla reazione cinese, secondo me è quello che può diventare una sorta di chiave di lettura per immaginare possibili evoluzioni. Ecco, ma quantitativamente, abbiamo visto gli hongkongini, ma quantitativamente sono più le persone che arrivano ad Hong Kong e muovono quindi una critica all'internet come piattaforma di conoscenza libera o... chi quantitativamente è più forte? Quantitativamente sono paradossalmente i cinesi ad Hong Kong, i cinesi che arrivano dalla Cina e che decidono, cioè che si rendono conto che comunque per anni sono rimasti all'oscuro di una serie di fatti e a quel punto vogliono aiutare chi è rimasto in patria, perché la cosa curiosa è che l'attivismo dei cinesi ad Hong Kong non si rivolge agli hongkongini, non si rivolge agli stranieri, ma si rivolge ai cinesi per cercare di passare a chi non è riuscito a raggiungere questo tipo di consapevolezza questa specie di verità, di nuova verità, quindi diffonderla sempre di più. Nova Lab 24. Allora, bentornati, siamo in collegamento con Gianluigi Negro, esperto di social network cinesi, e Claudia Starita, ricercatrice. Allora, vediamo di arrivare a conclusione, una parola grossa, però cos'è che, come si sta evolvendo dal vostro punto di vista, uno da Hong Kong e l'altro da esperto di Pechino, della Cina, come si stanno evolvendo i social media e cosa stanno insegnando sulla Cina? Volevo chiederlo prima alla Starita. Allora, secondo me quello che insegnano, diciamo, tutti questi blogger che parlano del loro paese, che comunque in qualche modo lo condannano, e che nonostante la repressione che resta dura da parte del governo, cercano sempre di trovare un modo, un mezzo per continuare a sfidarlo. Quello che mi fa un po' paura è che se tradizionalmente, diciamo, la Cina ha sempre sposato l'idea di, come dicono loro, ammazzare il pollo per far paura alle scimmie, quindi ammazzare qualcuno che è poco visibile o bloccare qualcuno che è poco visibile per fare paura agli altri in maniera che si limitino autonomamente, oggi la Cina inizia ad ammazzare o a colpire le scimmie, quindi persone particolarmente in vista, dimostrando due cose: da un lato una determinazione a bloccare questo tipo di apertura perché comunque dà una pubblicità dal punto di vista del partito negativa del paese, dall'altra però dimostra anche di non essere in grado al 100% di controllare questi flussi di notizie, di informazioni, e questo a mio avviso alla fine è positivo. Negro. Anch'io convengo con questa idea della sostenibilità. La blogosfera cinese ci ha insegnato negli ultimi anni di sapersi coalizzare, di saper denunciare e di essere quanto più attaccata allo strumento sia dei social network che di internet, dello strumento della rete in generale. Il problema appunto risiede nella sostenibilità, anche perché rischia di degenerare, come insegna ad esempio il fenomeno del cosiddetto motore di ricerca di carne umana, ovvero uno strumento che mette, che richiama per certi versi anche il vecchio Dazbao, ovvero cercare attraverso l'utilizzo dei social network dati personali di un soggetto politico o comunque in evidenza, e poi metterlo alla gogna. Ecco, vuoi fare un inquadramento del motore di ricerca di carne umana, che noi ne abbiamo parlato su Nova, ma non tutti lo sanno. Come funziona? Si, ident- amplifica attraverso appunto l'utilizzo di social network, programmi di messaggeria istantanea, successivamente siti internet, un soggetto politico, e il popolo della rete si coalizza per trovare appunto un maggior numero di informazioni personali su questo elemento, per poi sfociare in una vera e propria caccia all'uomo. Ricordiamo, questo qui è che è stata una tecnica utilizzata per denunciare funzionari, soprattutto poi funzionari, quindi per denunciare esponenti del partito che siano macchiati di determinate angherie nei confronti della popolazione, che insomma la risposta di internet è stata abbastanza netta, precisa e incontrollabile anche. Infatti io sarò scettico, credo tutto tranquillo, però insomma mi domando sempre dove stia la trasparenza nel racconto che noi abbiamo e nella visione che noi abbiamo dalle lenti dei social network. Beh, forse quello che resta appunto è quello che noi vediamo anche da qui, cioè noi abbiamo dei racconti delle persone che testimoniano, a volte con fotografie, a volte con video, a volte con interventi sui loro blog, quello che sta succedendo. C'è bisogno sempre di un controllo di quello che avviene detto, ma è anche vero che rispetto a 10 anni fa è cambiato tanto, perché Io, se mi permettete, a tal proposito avrei due dati. Chi naviga in rete, per l'84% del popolo della rete identifica internet come la prima fonte di informazioni, tuttavia solamente il 48% ritiene le informazioni che ottiene da internet veramente attendibili. Però questi sono un po', cioè sono quei questionari a cui io sì, sono importanti, però insomma quando a me me li fanno per avere le mie inclinazioni su internet, io do sempre delle risposte sconclusionate. No, non lo so se poi è così, è realmente così? Cioè la rete viene realmente utilizzata in Cina per scopi di conoscenza? La stampa sia cinese che anche internazionale ha riportato diversi casi in cui la rete è riuscita a far emergere delle realtà e dimostrarsi vicine alla cittadinanza piuttosto che a dei funzionari corrotti. Ecco, già però questo è diverso, cioè nel senso la rete che si organizza e che in un certo senso diventa un problema o un'opportunità per il regime, questo a seconda poi dei punti di vista, è qualcosa che è stato toccato con mano. Che internet sia lo strumento, e questo lo chiedo a Luca Dello Jacopo, da un certo punto di vista di emancipazione culturale, anche perché la mia domanda è, bisogna essere anche un po' relativisti, cioè non c'è una cultura buona e una cultura cattiva. Appunto è difficile definire una cultura buona e una cattiva, però hanno a disposizione delle informazioni che prima non avrebbero avuto. Quali siano le conseguenze di questo fatto adesso è difficile da dire. Però di fatto se voglio navigare su internet, e l'accesso a internet in Cina costa molto poco, pochissimo, e nelle principali città non è difficile trovare un internet point per connettersi, quindi non stiamo parlando di una cosa di elite, ma stiamo parlando di una cosa che per i ragazzi è una realtà comune. Ecco, hanno a disposizione delle informazioni che invece prima non potevano facilmente avere, e i filtri di cui abbiamo parlato buona parte si possono aggirare. Chi vuole cercare le informazioni ha dei modi abbastanza semplici per riuscire ad aggirare parzialmente i limiti che ci sono. Quello sicuramente. Se vediamo cosa succede anche in Corea del Sud. Le radici di social network e blog affondano in Corea del Sud. A Seul è stato fondato il primo giornale costruito dai lettori, Oh My News, e sempre in Corea è stato lanciato il primo social network, Cyworld. Non è un caso che siano tutti fenomeni partiti dalla Corea del Sud, è la nazione con la più alta penetrazione di banda larga al mondo. Eppure, l'Estremo Oriente riserva non poche sorprese. In Vietnam è stato da poco proibito l'accesso a Facebook, ma i giovani frequentano in massa blog e forum, soprattutto dagli internet caffè. Il Giappone ha conquistato l'avanguardia nell'utilizzo dei social network da cellulare. È qui che Twitter sperimenterà i micropagamenti su internet per acquistare beni e servizi attraverso i microblog. Ma in Estremo Oriente pesa un buco nero nel web. In Corea del Nord i cittadini non hanno accesso alla rete. E questo è un altro tema. E questo sì, è un tema complesso, e però è un grande buco nero. Quando ci sono le mappe di internet, in genere c'è questo buco nero della Corea che resta inspiegabile quasi. Sì, spiegabile anche perché poi di solito loro sono visti come il luogo di sperimentazione, almeno per anni sono stati letti come luogo di sperimentazione, vuoi per la banda larga, vuoi per le tecnologie messe in campo, poi però di fatto non sui contenuti si è visto ben poco, a parte Oh My News, che quello è diciamo l'esempio che viene sempre fatto. Ah, però sì, per la Corea del Sud, esatto, c'è il vantaggio, ecco, dei social network. Sono nati in Corea del Sud social network come Cyworld, c'è Oh My News che è stato il primo giornale partecipato, e quindi ha diciamo un in un certo senso ha anticipato quello che poi è successo nel mondo, in un certo senso è all'avanguardia poi del mondo di internet. Sì, non abbiamo detto moltissimo sul Giappone, che invece è un'altra bel racconto, perché loro hanno l'internet in piedi, no? Nel senso per cui hanno l'utilizzo dell'internet attraverso cellulare, anzi solo con il cellulare, che è completamente diverso sia nelle metriche sia nei messaggi che lanciano. E quello può essere forse il fenomeno che influenzerà di più la Cina, questo lo vedremo. E anche il nostro mondo, in effetti, perché è una sperimentazione poi di cose che noi vedremo probabilmente arrivare, come per esempio il caso di appunto dei microblog, che in Giappone sono decollati subito e che da noi poi sono decollati più lentamente. Va bene Luca, noi ci salutiamo qui, diamo però la linea alle news, che lanciano anche la puntata di domani. A fine gennaio l'annuncio e a marzo nei negozi. Apple è pronta per il lancio del nuovo e attesissimo tablet. Secondo il Wall Street Journal, per la casa di Cupertino sarà il più importante evento dal lancio dell'iPhone. Su internet una ridda di indiscrezioni sta montando l'evento. Il nuovo computer multimediale avrà uno schermo sensibile al tocco da 10 o 11 pollici, ma il condizionale è d'obbligo. Classica tattica della Apple, che non commenta né smentisce queste voci per tenere alta la tensione. Ieri il titolo della società è salito dell'1,6%, chiudendo a $214.01, un nuovo record. Gli analisti si aspettano che il nuovo prodotto costi tra i 500 e $1.000. Intanto continua la guerra legale tra Nokia ed Apple. Il più grande produttore al mondo di cellulari ha avviato una nuova causa legale, la terza, contro la Mela per presunte violazioni di brevetti. Sullo sfondo, ma neanche più di tanto, il mercato degli smartphone, stravolto dall'avvento dell'iPhone. Nokia ha depositato la causa in un tribunale del Delaware negli Stati Uniti lo scorso 29 dicembre, chiedendo i danni per la presunta violazione da parte di Apple di 7 brevetti Nokia in buona parte dei suoi prodotti, secondo quanto si evince dai documenti legali. Nexus One è il nome del Google Fonino presentato oggi. Il nuovo smartphone, basato sul sistema operativo Android, è atteso da tutto il mondo della telefonia. Realizzato dalla casa taiwanese HTC, si presenta nell'aspetto simile all'iPhone, ampio schermo touch e struttura compatta. Nato per internet e per restare sempre connesso, incorpora le innovazioni presenti e future di Google. Tra le novità, un sensore di prossimità che spegne il display in base al movimento percepito, e che si presta bene anche per nuove idee videoludiche. Infine, tutto è pronto per il Consumer Electronics Show di Las Vegas. Negli anni 90, principale vetrina delle innovazioni nell'elettronico di consumo, oggi una tra le più importanti fiere dell'high-tech. Sul palco, come da tradizione, i CEO delle principali aziende tecnologiche del pianeta. Ma i veri protagonisti quest'anno saranno gli e-book reader, i libri elettronici e i televisori in tre dimensioni. E proprio di 3D e della rivoluzione che si annuncia anche e soprattutto sull'onda del film di Cameron, Avatar, parleremo domani a Nova Lab 24. Appuntamento alle 16.